Capitolo 7. Il matrimonio di Alessandro. A. Usciamo? 1. Ascolta il dialogo. La mamma e il papà si preparano ad uscire con la loro bambina di pochi mesi. Mi vesto e usciamo, va bene? Ho solo bisogno di 10 minuti. Bene. Puoi stare tu con la bambina mentre mi preparo? Altrimenti piange. Certo. Un minuto. Porto queste cose in macchina. Se inizi a piangere quando usciamo, mi dimentico tutto. Telefono, chiavi di casa, patente, occhiali, tutto. Vero. Ieri mattina sono uscita e poi mi sono fermata a 300 metri da casa. Sono tornata indietro per prendere la mia borsa e per chiudere la porta di casa. Vabbè, basta non farsi prendere dalla fretta. Sì, sì, come dice il proverbio, tra il dire e il fare. C'è di mezzo il mare. Sei pronta? Io sì. E tu? Certo. Allora vado a prendere la macchina e mi avvicino all'ingresso. Noi intanto ci guardiamo allo specchio. Sì? Chi è quella bimba? Che bella bimba!